protesi di ginocchio tradizionalmente è una parte legata alla parte femorale, quello che viene chiamato condilo femorale, che è fatto con una lega metallica molto resistente, molto idonea alle sollecitazioni, all'usura, una lega di cobalto, mentre la cosiddetta parte legata alla al piatto tibiale, così viene chiamato in gergo, in genere è fatta con un polimero, polietilene a ultra alto peso molecolare, per garantire l'articolazione fra le due superfici. Però inevitabilmente, essendo un'articolazione in cui non esiste una lubrificazione esterna come i nostri motori in cui mettiamo dell'olio perché questi non abbiano problemi di attrito, comunque questi materiali sono abbastanza soggetti a fenomeni di usura e in particolare il componente polimerico, che è quello leggermente più tenero, può rilasciare nel tempo piccoli detriti e questi nel lungo periodo possono dare problemi. Sì. In ogni caso, al di là di questi che sono i materiali oggi tradizionali, pertanto lega di cobalto per la parte femorale, polietilene per la parte tibiale, la ricerca si sta muovendo evidentemente per migliorarne le prestazioni, sia verso direzioni, chiamiamoli, di breve periodo, sia verso soluzioni di lungo periodo, in cui però sicuramente oggi non stiamo assolutamente pensando ad applicazioni cliniche. In questo senso in particolare si sta cercando di introdurre all'interno dell'articolazione del ginocchio la ceramica, oggi molto usata nella protesi d'anca, ma che fino ad oggi non può essere usata nelle protesi di ginocchio perché la ceramica è inevitabilmente fragile ed essendo molto più sollecitato il ginocchio, come molto lei più ci ha spiegato, l'articolazione con le ceramiche che c'erano fino a 4-5 anni fa era impensabile realizzare protesi di ginocchio.